I colori dell'anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. Benvenuti cari amici di Radio Alma, siete sintonizzati sul 101.9 per una nuova puntata di I colori dell'anima, come ogni lunedì sera con voi dalle 21 alle 22. In regia c'è il sottoscrittore rullante, com'è, per presentarvi la puntata di oggi c'è Donatella. Buonasera Donatella. Buonasera a tutti i nostri amici dei colori dell'anima. Stasera I colori dell'anima affronta un tema sociale molto importante, la cecità. E con quale colore si può rappresentare la cecità? Diciamo che distinto, il primo colore che ci viene in mente è il nero. Però poi, riflettendoci più a fondo e ispirandoci anche al libro Cecità di José Saramago, abbiamo scelto il bianco. Infatti, come cita proprio questo libro, in una città qualunque, di una nazione qualsiasi, in un tempo indefinito, all'improvviso, nel tran tran quotidiano, tant'è vero che il primo ad essere colpito è un uomo fermo ad un semaforo, esplode un'epidemia di cecità, una cecità contagiosa che si trasmette non si sa come. E questa cecità non è solo più contagiosa e si diffonde più rapidamente di un'influenza, ma per di più è bianca. È come essere immersi in un mare di latte ad occhi aperti, dirà uno dei ciechi. Già, uno dei ciechi. Ma chi? Cosa importa? Sono, siamo, in fondo siamo tutti ciechi, non solo gli uomini, anche Dio. Leggete, appunto, dice Saramago, e capirete cosa intendo. Quindi, perché il bianco questa sera? Il bianco per noi riassume tutti i colori, cioè il nostro punto di partenza è appunto che la cecità è una permanente visione del colore che somma in realtà tutti gli altri colori. E parlarvi di questo tema impegnativo stasera e per comprendere meglio il mondo dei non vedenti, siamo felicissimi di avere con noi in studio due ospiti molto speciali, Lilian Cantella e Frédéric Lamoury. Benvenuti buonasera. In studio. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. È un grande piacere questa sera appunto avere con noi questi ospiti così speciali. Abbiamo anche la mamma di Frédéric con noi. Siamo infatti, una grande squadra e questa piacere, sera sì. Ecco, parafrasando già Gianni Morandi, Donatella. Sì, sono rimasta nello spirito di Sanremo, siamo uniti. Bellissimo. Voi avete seguito Sanremo, sì, ragazzi? Sì, sì, sì, senz'altro. C'era qualche canzone che vi è piaciuta più di un'altra? Sì, c'è stata quella vincente e poi c'è stata ancora quella di Anna Tatangelo. Ai ai ai ai, andiamo sul mio melodico qui. E Frédéric, tu hai seguito qualcosa? No, ho seguito soltanto la prima... La prima serata, non dopo. Ti è bastata. Non ho avuto l'occasione, ma però questa mattina ho sentito una bella canzone in italiano che mi ha fatto veramente piacere, la canzone di Marco Masini, Perché lo fai, una canzone degli anni 90. Eh sì, una canzone storica. Bellissima, bellissima. Del patrimonio musicale. E quindi, come dicevo, stasera Lilian e Frédéric ci aiuteranno a capire che cos'è il mondo dei non vedenti. E per incominciare a condividere con voi appunto queste impressioni, vi farei una domanda piuttosto generale. Mm-hmm. Cioè, che cos'è in realtà per voi la cecità? Come la vivete? La sentite come uno stato particolare? Beh, diciamo che all'inizio è stato qualcosa un po' difficile da accettare, perché io sono nata, diciamo che vedevo ancora un po' e poi sono diventata cieca piano piano, e quindi è stato un momento un po' difficile all'inizio, ma adesso ho superato quello. Pienamente superato. E a che età era questo, Lilian? Ma piano piano, verso 14 anni, poi verso 18 anni. E tu invece, Frédéric? Io sono nato non vedente e diciamo che sono andato a scuola, alla scuola dei ciechi, quando avevo 4 anni. Ho imparato la scrittura Braille da piccolo e quando ho avuto 6 anni ho incominciato a imparare il pianoforte, la musica classica, la scuola dei ciechi, sempre, e sono rimasto a quella scuola fino a, da quando ho avuto 16 anni, e dopo sono andato ad una scuola normale per finire les humanités, come si dice qui in Belgio. E dopo les humanités sono andato, ho fatto 2 anni di scuola superiore a Listi, dove ho imparato l'italiano e l'inglese, ma mi dispiace per gli errori che farò durante questa trasmissione, ma non ho tanto l'occasione di parlare con gli italiani. Allora, vai benissimo, mi dispiace veramente. Ma figuriamoci, non ti preoccupare, probabilmente ne faremo di più io e Volano messi insieme. Liliana, invece tu che genere di percorso hai fatto? Perché spesso appunto sappiamo che ci sono anche delle scuole appunto riservate ai non vedenti, che hanno tutto un percorso particolare. Eh no, io infatti sono andata nella scuola diciamo normale, ho fatto un percorso scuola elementare, poi le medie eccetera, ho fatto anche l'ISTI anch'io, poi ho fatto 3 anni di psicologia e sono stata aiutata anche da alcune istituzioni che mi hanno aiutato per gli studi. Ecco. Sì. E allora avete menzionato tutte e due, insomma, la scuola normale e la scuola per i non vedenti. Potete introdurci un po' in questo mondo? Qual è la differenza? Può sembrare magari una domanda banale, ma qual è la differenza principale? Diciamo che nella scuola dei ciechi tutto i corsi si fanno tutto in braille, e ci sono corsi che sono un po' adatti, come il corso di matematica, di fisica, tutte le materie scientifiche sono un po' adatte per noi, ma però nella scuola normale bisogna seguire, tutto si fa con tutto si scrive al tableau, non so come si dice, alla lavagna, sì. E allora per noi ciechi era più difficile, ma la scuola normale c'erano professori che ci aiutavano, che ci davano corsi particolari registrati anche sulle cassette. Fantastico. Insomma, immagino che appunto c'è stato tanto da imparare, e forse tornando un attimino al punto di partenza, siete d'accordo sul colore che abbiamo scelto per questa puntata, il bianco? E io avrei detto il verde. Ah, verde speranza. Verde speranza. Ottimo. Perché per me è più importante essere sempre nella speranza, perché possiamo fare tante cose, non è perché siamo ciechi che non possiamo fare tante cose come gli altri, ecco. Quindi il verde è un bel colore, infatti, sì, speranza. Sì. E anche tu, Fede? Ma il bianco per me rappresenta le cose positive, e bisogna vedere la vita così, in un modo positivo, e bisogna integrarsi con la gente che non hanno un handicap, e fare attività, fare dello sport. A me mi piace nuotare, fare delle passeggiate, fare un po' di bicicletta, di tandem. mi piace vivere con gli altri, essere totalmente come gli altri, come la gente che non hanno, ecco, handicap. E nel resto della puntata parleremo ancora molto di più di tutte quelle cose che si possono fare, anzi magari anche delle qualità che persone non vedenti spesso molto speciali che hanno. E stasera vi introduciamo anche le capacità musicali di Friedrich in particolare. E parlando di musica, ascoltiamo il primo brano di questa puntata, e ascoltiamo Sting, che canta una canzone che credo originariamente è di Elvis Costello, Ain't No Sunshine. Sì, abbiamo deciso che solamente versione molto particolare questa di Ain't No Sunshine, Sting su 101.9. Siete sintonizzati su Radio Alma e state ascoltando I Colori dell'Anima, dove stasera abbiamo due ospiti molto speciali, Donatella, Frédéric e Lilian, come abbiamo detto prima, e parliamo del tema della cecità. Eh sì, come abbiamo introdotto prima, abbiamo questi due cavi amici che ci aiutavano questa sera a capire un po' meglio qual è il mondo della cecità, come si vive la cecità al giorno d'oggi, quello che si può fare, come lo si può fare meglio e come noi possiamo aiutare. E infatti, per incominciare, appunto, volevo fare una domanda magari un po' banale, però ecco, mi chiedevo, spesso c'è una sorta di discriminazione nei confronti dei disabili e nello specifico dei non vedenti, ma voi potete fare appunto attività come tutto il resto del mondo, quindi ad esempio lavorate, che genere di lavoro si può fare, siete impegnati voi personalmente in qualche attività? Sì, io sono impegnata in volontariato, e quindi parlo al telefono, prendo degli appunti, vengo in aiuto alle persone che hanno di bisogno. Ottimo, e tu Frédéric? Io, beh, come l'avete detto... Tu hai una professione molto speciale. Beh, canto, faccio degli spettacoli per le persone anziane a Bruxelles e un po' in Wallonia, e faccio anche le animazioni per le feste di società. Sono musicista, suono la tastiera, canto, faccio naturalmente quando è possibile, faccio le mie canzoni e faccio anche i grandi successi adesso degli anni 80, soprattutto in francese, in inglese, ma a volte la gente mi chiedono una o due canzoni in italiano. E canta benissimo in italiano. Ah, sì? Magari ti facciamo anche cantare un pezzettino dal vivo in studio. Volevo tornare un attimino sulla discriminazione che Donatella ha menzionato prima. Voi vi siete sentiti mai nella vostra vita discriminati per il fatto di essere non vedente, o comunque vi siete magari mai sentiti limitati magari dal comportamento degli altri nei vostri confronti? Beh sì, anche nei studi, per esempio in psicologia, dove c'erano alcuni corsi che non potevo seguire come gli altri, perché c'erano dei disegni, eccetera, quindi era un po'... Non era predisposto per i non vedenti. E in questo senso il Belgio come sta messo? Perché tu hai fatto gli studi a Bruxelles, sì. Vero Lilian? E il Belgio e Bruxelles, diciamo, è una città molto friendly, per usare un inglesismo, per i non vedenti? Beh, io direi dipende di una scuola all'altra, perché facendo gli sti è stato un po' più diversa, un po' più competitiva, eccetera. Poi sono andata in un'altra scuola e lì ho fatto la psicologia e veramente mi sono sentita benissimo, anche con i professori, le altre persone che studiavano. No, veramente è stato bellissimo. E per te, Frédéric? Sì, Liliana ha parlato della scuola. Io dirò che nella vita in generale, quando incontro la gente, quando incontro qualcuno, sono io che devo metterlo a lese, a suo agio. E così la persona rapidamente si sente bene, incomincia a chiacchierare, a parlare, non c'è problema. Ma sono le persone non vedenti o disabili in generale che devono fare lo sforzo di mettere gli altri ad agio. E spesso devo dire anche che le persone mi dicono, per esempio, ma io sai che mi dimentico che tu non vedi. Posso immaginare che questo lo posso confermare, anche perché con entrambi ho un feeling veramente positivo e dopo un po', dopo qualche secondo, veramente si dimentica totalmente. E infatti, appunto, tornando a questo discorso poi di mettere le persone al loro agio, io ho una domanda che può sembrare ancora una volta molto banale, ma sono sempre chiesta, quando si incontra un non vedente per strada, come ci si comporta? Cioè, voglio dire, ad esempio, in prossimità di un incrocio, in prossimità delle scale. Io alle volte sono in dubbio perché ho paura poi magari di ferire la sensibilità della persona, quindi non so come andargli vicino, come approcciarmi. Ma io direi una cosa: se c'è un pericolo veramente molto, molto grande, allora la persona si può prendere così e dire attento, perché lì puoi avere qualcosa di grave, non so, cadere o... Sì, sì, sì. Ma se veramente la persona conosce, diciamo, la strada che sta facendo, meglio chiedere alla persona se vuole essere aiutata o no, perché a volte possiamo essere disorientati anche. Infatti, immaginavo. Sì. E anche per te, Federico, più o meno è la stessa impressione? Sì, sì, ma diciamo che in città, sulla Chaussée de Waterloo, per esempio, fa sempre piacere incontrare la gente che ci aiuta a attraversare la chaussée, perché è molto pericoloso e a volte è difficile trovare l'entrata di un negozio, l'entrata delle gallerie, per esempio. Allora l'aiuto è sempre, diciamo... Fa piacere l'aiuto, è anche un modo di contatto con la gente, così non ci sentiamo da soli sulle strade. Sì, e sì. La città è anche predisposta per darvi dei punti insomma, di orientamento, Bruxelles in particolare, è facile muoversi magari in centro da non vedente? Non tanto. Non tanto, Non tanto. Immagino, no. Siate spregiudicati nei commenti. No, diciamo che l'importante è di essere aiutato dalla gente. Penso anche nelle stazioni, la Gare du Midi o altre stazioni in Belgio, riceviamo aiuto dalla SNCB. Li chiamiamo un giorno prima di prendere il treno, diciamo alla SNCB che abbiamo bisogno di un aiuto per andare a Charleroi o a Monza, e ci vengono a prendere sul quai e ci aiutano per andare nel treno e cambiare treni. È un bel aiuto quello. Eh sì, direi che è un bel servizio. Sì, sì. In Italia non sono a corrente, ma sono rimasta spesso sorpresa dal fatto che perfino ai semafori non ci fosse il segnale acustico. È una cosa che appena si aveva in Belgio, anche in Germania, in Olanda, si nota subito, quindi è già molto più piano piano semplice. Piano piano stanno cominciando a cambiare un po', ma... Sì. Si spera sempre in positivo. Sì. E magari vale, insomma, in questo contesto anche vale la pena menzionare le differenze tra i vari paesi. Ovviamente un paese come il Belgio, i servizi in generale, il livello dei servizi è abbastanza alto, e ci sono ovviamente paesi dove la gente in generale è meno fortunata e dove per i non vedenti è molto difficile muoversi, nelle parti più povere del mondo. Ma volevo anche riferirmi un attimo ai libri. Abbiamo parlato prima dei libri in Braille, e ho letto che solo il 5% dei libri pubblicati nei paesi industrializzati è accessibile ai ciechi, e nel sud del mondo infatti la percentuale scende anche ad un imbarazzante 1%. Sì, infatti, proprio per porre fine a questa carestia di libri, diciamo, la World Blind Union, che rappresenta oltre 160 milioni di ciechi e ipovedenti in 177 paesi, ha presentato proprio l'anno scorso, nel 2010, al Parlamento europeo, un documento in cui si chiede che le leggi vigenti sulla proprietà intellettuale prevedano delle eccezioni per la distribuzione non commerciale di libri, appunto, in formato accessibile per tutti. Ecco, e fino ad ora ad occuparsi del problema sono, in modalità diverse da paese a paese, organizzazioni del terzo settore, volontari, cooperative e onlus, che trascrivono i libri pubblicati in diversi formati: Braille, caratteri ingranditi, registrazioni in MP3, o in formato ad hoc per i libri accessibili, che si chiama DAISY, e che prevede la commistione dal file audio e testo in versione digitale, giusto? Sì, giusto. Voi avete esperienza con tutti questi formati? I formati MP3, il Braille, Si può dire che c'è anche una preferenza? Avete una preferenza per un certo tipo di lettura? Ma io direi che adesso uso molto anche internet per leggere, perché adesso ci sono tanti libri su internet, quindi per me è il mio modo preferito adesso di, ecco, di leggere. Hai menzionato internet, la tecnologia. Sì. Spiegaci un po'. Diciamo il vostro computer, il vostro accesso a internet, immagino che non sia come il computer che uso io. Il computer è un computer normalissimo, direi, ma soltanto che c'è anche una sintesi vocale e una tastiera braille. Sì. E quindi possiamo leggere, per esempio, quando devo scrivere, io scrivo qualcosa, posso rileggermi, eccetera. Quando devo leggere qualcosa, allora metto via il come si dice? Ma ad esempio, quando tu cerchi qualcosa su internet, sì, no? Inserisci quello che vuoi cercare, sì, e poi c'è la voce che ti guida nello scorrimento dei risultati. Ma io quando scrivo il computer parla e mi dice le lettere che io scrivo. E poi mi dice tutto quello che c'è sulla pagina. Fantastico. Sì, spero tanto che il computer non abbia la mia remoscia, perché altrimenti è un casino. Hai una bella voce. A me mi piace ancora. Sì, vado anche spesso su internet, ma mi piace anche leggere un libro in braille. Da piccolo ricevevo dalla Libraille libri di autori francesi classici, e mi è sempre piaciuto leggere in braille, così posso un po' immaginare i paesaggi, i personaggi, mi faccio tutta un'immaginazione leggendo in braille. Ed ecco qui che Federico è molto più melanconico e nostalgico. Guarda Federico, io ti confesso che anche io preferisco leggere sempre i libri, e non riesco proprio veramente ad apprezzare appieno queste nuove tecnologie. Qualche volta sì, però poi diciamo il vecchio è sempre, ha sempre il suo fascino. Tipo il tatto, giusto? Avere, sì, poter toccare. Addormentarsi sul libro. E il fatto di toccare i punti, di girare le pagine, tutto è un'esperienza diversa. Sì, è diverso. Ho tentato ascoltare le cassette, i libri sui cassetti, sui MP3, ma è difficile. Ti addormenti. Ma ascolto e dopo penso ad altre cose e perdo un po' la concentrazione. Ecco, Friedrich ci ha menzionato una passione, insomma, la lettura. Vogliamo invece adesso passare ad un'altra tua grande passione, forse quella sì, più grande della la tua più vita. Più grande, veramente. La musica, il pianoforte. Raccontaci un po' come è nata questa passione. Beh, questa passione è nata da piccolo, quando avevo 4 anni, rimanevo dai miei nonni tutta la giornata, e il passatempo preferito era di ascoltare la radio, ascoltare dischi, registrare la mia voce, cantare. E allora, quando sono arrivato a 6 anni alla scuola dei ciechi, è stato possibile incominciare corsi di pianoforte con un professore non vedente, e che mi ha imparato il solfeggio in braille. Dopo il terribile solfeggio. Sì, il solfeggio è stato un po' difficile, era un momento che è passato veloce, diciamo. Ho fatto poco solfeggio perché ero veramente, volevo subito passare allo studio del pianoforte. E il professore mi ha incominciato a imparare un po' di musica classica. E quando ho avuto 10 anni, la musica classica non mi piaceva tanto, perché a casa ascoltavamo canzoni di varietà, canzoni popolari, e allora gli ho chiesto di mostrarmi gli accordi che si ascoltano nelle canzoni. E allora dieci anni ascoltavo la radio e dopo mi mettevo al pianoforte e incominciavo a cercare gli accordi. Passavano la canzone di Lionel Richie, Hello, un bel successo. Certo. E dopo ho fatto il mio primo piccolo concerto quando ho avuto 13 anni nella paroisse de Haute Saint-Genèse. Abbiamo fatto un piccolo concerto e le cose dopo, i piano bar a Bruxelles vicino alla grande piazza. Attenzione, si è passati subito dalla chiesa al piano bar. Ah, sì perché alla chiesa ho suonato veramente seriamente canzoni un po' un altro tipo di musica dal piano bar, giusto? Sì nei piano bar si suonava sempre Lionel Richie, The Beatles, queste canzoni. Ecco, e da non vedente il pianoforte si suona anche diversamente. Immagino che il brano bisogna conoscerlo a pieno prima di suonarlo, perché non si può suonare e leggere in questo momento. Si fa tutto da memoria. Sì. Quando imparo una canzone scrivo le parole in braille, dopo cerco gli accordi, le note sul pianoforte e dopo devo memorizzare. Ho imparato una canzone di Supertramp, un gran successo, The Logical Song. Bellissima. È stato veramente, ho lavorato qualche giorno per metterla in testa, perché ma ce ne canti un pezzettino. Se, when I was young it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical. Wow. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh joyfully, oh playfully watching me. And then they send me away to teach me how to be sensible, oh logical, oh responsible, practical. È stato andiamo a Sanremo, andiamo l'anno prossimo. Ecco, bravissimo. Quindi andiamo subito a Aero. Come si chiama il festival europeo? Eurovision. No, Eurosong adesso. All'italiano. Ecco, direi anche meglio di come si chiama il cantante di Supertramp che era qui quest'estate. Roger Water, mi sembra. Comunque, bravissimo. Allora, credo che è proprio ora di ascoltare un tuo pezzo, perché ne hai portato qualcuno. Sì, sì. E il primo pezzo che volevi farci ascoltare si chiama Son métier d'homme, il suo mestiere. Diciamo che in italiano è difficile tradurre i titoli così. Son métier d'homme, il suo mestiere d'uomo. E di cosa parla? È una canzone d'amicizia. Sto parlando ad un amico che è stato, diciamo che la sua compagna, la sua moglie se n'è andata e lui sta molto triste, piange, non si sente bene, e io sono lì per un po' consolarlo e dico che in quei momenti è difficile consolare una persona, ma il fatto di essere vicino a lei, il fatto di essere vicino a lei, lo posso aiutare così, senza parlare, senza dire niente, ma una presenza è molto bella. Direi che questa canzone è ancora più speciale, se a sceglierla è stata proprio Lilian. Sì, perché mi piace tanto questa canzone. E perché canzone ti piace questa canzone? Non lo so, è la prima che ho sentito da Frederic e mi piace. E ti è rimasta nel cuore. Sì. Allora ce la sentiamo tutti insieme. Grazie. Siamo tornati in studio, Radio Alma, questi sono i colori dell'anima. Abbiamo ascoltato Son métier d'homme di Frédéric Lamoury, introdotto da Frédéric Lamoury, e siamo proprio contenti di avere lui e Lilian con noi in studio stasera. Infatti questa sera, come abbiamo anticipato già precedentemente, parliamo di un tema a noi molto caro con due appunto amici speciali, che è quello della cecità. E Frédéric è un cantante molto affermato qui a Bruxelles, speriamo che, non so se prima o poi riuscirà a farsi conoscere anche al di là delle frontiere. Sì, in Italia, perché no, l'estate sulle belle spiagge così, fare bei spettacoli. Il posto lo sei scelto già bene, diciamo. Il posto l'ho trovato, sì, l'ho scelto. Qual è il posto più bello dove hai cioè qual è la tua, diciamo, performance che ti è piaciuta e ti è rimasto di più? Ormai sono, quanti anni sono che canti? Che canto? Mese prossimo farò 40 anni e canto da quando ho 18 anni. Ah, ecco, 18 insomma, anni. E il posto che veramente mi è molto piaciuto, sono andato 2 anni fa a Boulogne-sur-Mer, in estate. D'estate ho cantato sulla spiaggia una sera, così c'erano 500 persone. Wow. È stato veramente bellissimo, la gente ci metteva un ambiente magnifico. Ecco. È stata quindi una serata speciale per te? Sì, sì. A Bruxelles penso spesso ai piccoli luoghi dove ho cantato 10 anni, 15 anni fa, quando c'erano ancora i piano bar, i caffè teatro, vicino alla grande piazza o alla rue du Lombard. No, ho veramente molti ricordi di bei posti dove sono andato. Bene, bene. Quindi, dopo questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato insieme, mi chiedevo dov'è che in generale normalmente appunto prendi ispirazione per queste fantastiche canzoni. Dove trovo l'ispirazione? Sì, non so se hai dei riti particolari. Sì, sì. Spesso voi artisti siete un po'... L'ispirazione... A me mi piace nelle mie canzoni parlare di amicizia, d'amore naturalmente, perché certo. Sono d'origine italiana, mia mamma è d'origine calabrese, allora bisogna parlare bisogna parlare d'amore nelle canzoni, di festa, e a volte sul mio CD, che si chiama Un autre regard, un CD che ho fatto l'anno scorso, ci sono due canzoni un po' più impegnate, una canzone che si chiama El Tourne, nella quale parlo dei problemi, delle guerre nel mondo che non finiscono mai, o qualche canzone più serie, o anche una canzone più umoristica che si chiama L'impresario tombé du ciel, l'impresario caduto dal cielo, perché ne ho incontrato molti degli impresari che mi hanno promesso tante cose che non si facevano mai, ma allora ho voluto dedicargli una canzone un po' umoristica, un po' insolente così. Ecco. E vogliamo, visto che sono ormai quasi le 21:45, vogliamo approfittare per ancora sentire qualche brano di Frédéric. Sì. E abbiamo messo, insomma, pronto per partire La Star C'est Vous, e ce lo introduci tu, Frédéric? La Star C'est Vous, 12 anni fa ho partecipato ad un concorso su RTL TVI che si chiamava Star Ce Soir, e dovevamo imitare un cantante famoso. Io ho fatto un'imitazione di Gilbert Montagnier, che anche lui è cieco, e allora da quel momento ho constatato che gli organizzatori di spettacoli, l'impresario, il pubblico mi hanno preso più al serio da quel momento che sono stato andato in finale di quella trasmissione su RTL. È un po' una svolta, quindi. Sì. E allora ha vinto. Ha pure vinto, ecco. E allora ho voluto 12 anni dopo ringraziare il pubblico che mi ha seguito, che mi segue ancora nei piccoli luoghi. Ho voluto dire che il pubblico è veramente la star. E rieccoci qui in studio sui colori dell'anima. Questa sera in regia c'è Roland e qui in studio con me due amici molto speciali, Frédéric e Liliane. che ci hanno fatto compagnia in questo Vado Vascosta insieme. E Vuland, appunto questa sera parliamo di cecità, abbiamo tante domande da fare, sono sicura che tu ne hai ancora qualcuna, no? Ecco, abbiamo ascoltato appena un brano, La Star C'est Vous, uno dei brani di Frédéric Lamoureux, e abbiamo parlato un po' del suo passato e quello di Liliane, del presente, e adesso magari guardiamo un attimo al futuro. Che cosa, quali sono le vostre, i vostri piani, le vostre, i vostri sogni per i tempi a venire? Liliane, cominciamo con te. Liliane. E non dite vincere il milionario. Io direi andare sempre avanti con la speranza, giustamente, che le cose vanno sempre bene. Ecco, io faccio parte, per esempio, la commissione consultativa della persona handicapée di Saint-Gilles, e quindi parliamo di tutto quello che è positivo, anche quello, i punti ancora da un po' più difficili, diciamo, e per cambiare. E vi riunite periodicamente, una volta al mese? O una volta al mese, o ogni due mesi, dipende un po'. Sì. E c'è un gruppo, appunto, con il quale vi confrontate sui vari bisogni della... Sì, diciamo, sono delle persone che sono non vedenti, poi ci sono anche le persone che hanno un handicap fisico, mm-hmm. e tante altre persone che vengono, poi c'è l'Echevin de Saint-Gilles, des Affaires Sociales. Beh, direi sicuramente un ottimo strumento di confronto, appunto. Tra il comune e le varie comunità, e quindi vari bisogni a livello locale. Sì. E tu, Frédéric, invece, con questa, sulle onde di questa musica così bella, che cosa ti regalerà il futuro? Cosa hai in mente? Dal punto di vista di musica, al primo marzo la gente potrà andare su internet, su iTunes e altre piattaforme di telechargement, e potranno comprare le mie canzoni. È una novità, perché il CD non funziona, funziona più, il fatto di uscire un CD, allora bisogna mettere le canzoni su internet e farle conoscere così. Scaricarle. E questo album Un Autre Regard, che sarà disponibile? Sì, sarà su iTunes, su altri siti. E se la gente vi vorrebbe... ti vorrebbe ascoltare dal vivo, quali sono le prossime possibilità? Sì, il 12 marzo alle ore 20. Prendo appunti, Sì. 12 marzo alle 20 dove? Alle 20 al Café Théâtre Le Bisou, numero 13, Rue de la Promenade, Anderlecht, vicino alla stazione di metro Le Bizet. Allora farò un concerto con i miei musicisti, siamo in tre, uno che suona la batteria, un altro la bass, io col pianoforte, e farò le mie canzoni, e all'inizio della serata ci sarà un altro cantante che fa anche lui canzoni francese. Dunque sarà un coplateau, come si dice, il 12 marzo, e se volete potete avere le informazioni sul mio sito, tre volte W, Frédéric Lamoureux. Punto be, voilà, grazie. Io l'ho visitato, e si possono anche ascoltare delle canzoni, e per questo ve lo consiglio vivamente il sito. E chiediamo a Liliane, sei mai stato ad un concerto di Frédéric? Sì, tanti concerti. Ecco. Il 12 marzo. Il 12 marzo sarei ad Anderlecht? Sicuramente. Prima scherzavamo sul fatto che Liliane ormai è più agguerrita di un giudice di X-Factor. No, adesso c'è Donatella che ha maturato la seconda fan. Sì. Ora che ho scoperto Frédéric, sarà un tormento per le orecchie di tutti quelli che mi sono intorno, perché poveri miei vicini non faranno altro che fare una cultura musicale su Frédéric. Ecco, allora magari ci vuole anche una piccola email al signor Mazzi, il signor Morandi a Sanremo, che magari stanno già cercando delle canzoni per l'anno prossimo. Perché sicuramente non sfigurerebbe una tua canzone, perché ne abbiamo ascoltate già due qui in studio, e lasciamo un pezzo per concludere. E magari Frédéric, ce lo introduci tu nuovamente, perché ovviamente chi meglio di te puoi parlare delle tue canzoni. Questa canzone si chiama La couleur des larmes. La couleur des larmes, il colore delle lacrime. Quando siamo tristi, quando si piange, se siamo bianco, nero o giallo di pelle, tutti abbiamo le lacrime dello stesso colore. Le lacrime sono trasparenti. Una canzone di tolleranza tra i popoli. Nella vita bisogna essere tollerante. Questa sera abbiamo parlato dei non vedenti, e io quello che mi piace di più è che la gente, che le mentalità cambiano, che le barriere cadono tra i disabili e tra la gente che non hanno handicap, che non sono disabili. E il più importante è quello che possiamo vivere con gli altri, che possiamo fare tante attività con l'aiuto della gente, e che possiamo essere epanui, normale, come tutti. Voilà. Condivido ben detto. Pienamente questo parere. Ecco, su questa nota ascoltiamo questo bellissimo brano e torniamo da voi per i saluti. La couleur de l'arme, Frédéric Lamoury sul 101.9, sono le 21:58 e noi dei Colori dell'Anima in studio vi salutiamo, perché siamo arrivati alla fine. Ovviamente torneremo da voi lunedì prossimo, che lo sapete, e ci siamo ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 per mostrarvi tutti i colori dell'anima. E Donatella, vogliamo ovviamente ringraziare tanto i nostri ospiti che ci hanno accompagnato quest'ora. Sì, ci hanno fatto davvero tanta compagnia questa sera, è stato un viaggio davvero piacevole insieme a voi, e spero insomma che anche per voi sia stato piacevole momento di confronto. È stato un gran piacere essere con voi. E magari continuiamo il viaggio musicale il 12 marzo, ve lo ricordo un'altra volta, il 12 marzo. Ah sì sì, al Café Théâtre Le Bisou. Le Bisou, un nome, una garanzia, giusto? Sì sì, Le Bisou, un bel nome. E speriamo in Italia, si vedrà, un concerto in Italia, perché no? Saremo. Probabilmente la prossima volta lo vedremo direttamente in TV. Vicino a Gianni Morandi, sì. Ecco. Sì, sì. Allora, prima appunto di salutarvi, avete un ultimo messaggio da lanciare ai nostri amici di Radio Alma? Radio è una radio che mi è sempre piaciuta, sempre aperta agli artisti del Belgio. È importante che le radio locali continuano a promuovere gli artisti belghi e italiani. È importante per noi, per poter continuare.